Ok, allora siamo di nuovo in diretta appunto col corteo, perché come ci aveva detto il compagno prima, il corteo comunque è tornato serenamente sui propri passi, sul proprio percorso, si stava dirigendo di nuovo, diciamo, alla chiusura, verso la chiusura. Immagino che poi il Dordoni sia di nuovo il posto che accoglierà le migliaia di antifascisti e antifasciste corse oggi a Cremona, no? Ciao, sì, buonasera a tutti e a tutte. Stiamo praticamente arrivando al centro sociale, al Dordoni. Il corteo sta sfilando tranquillamente dopo aver abbandonato, diciamo, la zona dove c'era la sede di Casa Poco, dove c'era lo schieramento di polizia che ricordava molto una zona rossa in stile Genova 2001, cioè con reti. Sì, infatti, mi hanno detto proprio con le reti, esatto, sì. Sì, sì, proprio con le reti. Niente, ora appunto penso che già abbiate fatto altre corrispondenze, il corteo sta ritornando, siamo arrivati quasi tutti praticamente al Dordoni, e tutto tranquillo, non si ha notizie di fermando né di niente, per cui è andato tutto abbastanza bene. Diciamo che una Cremona, la Cremona che vi aveva accolto deserta, con i negozi chiusi, già forse sapeva un po' di quel clima che era stato messo, un po' di terrore che era stato seminato. Sappiamo che c'è stata una sorta di porta a porta da parte delle forze dell'ordine per chiedere alla gente di chiudere i negozi, così. Invece io credo che oggi sia stata percorsa da un corteo molto determinato, compatto, e che ha veramente rimarcato l'antifascismo, no? In questa città. Cremona, cioè, tutto era chiuso, tutto, negozi, però cioè, bisogna anche dire che c'era tanta gente in giro, cioè, per le strade a guardare e sfilare il corteo, per cui sì, è vero, da un certo punto di vista, soprattutto commercianti hanno risposto al terrorismo psicologico spinto dalla questura di Cremona, però molta gente anche curiosamente ha voluto guardare questo corteo di cui si è tanto parlato in questi giorni, quindi anche ha voluto guardare le migliaia di antifascisti che sono venuti qui a sfilare in solidarietà con il Dordoni e con Emilio. Va bene, adesso insomma voi sarete al Dordoni, credo che comunque appunto chiudiamo con una bella giornata, con un bellissimo corteo che ha visto sì esprimere la rabbia, ma anche appunto marcare il proprio passo, la propria compattezza, la propria solidarietà a Emilio e appunto il proprio antifascismo. Va bene. Esattamente, buona serata a tutti e a tutte. Io ti ringrazio ancora e allora buona serata, salutaci i compagni del Dordoni. Grazie, ciao. Ciao.